titoli nel mondo. Un gentiluomo di campagna. Tredicesima trasmissione dedicata agli emigrati. Pianura del Friuli. Pianura viva nelle pagine romantiche di Ippolito Nievo. Dalla nitida chiaia del Tagliamento sprizzano ad ogni passo le limpide e perenni fontane, e di sotto alla siepe sforacchiata dal vento effondesi un profumo di viole più delizioso che mai, e per l'aria salubre e trasparente piove da mane a sera il canto giocondo delle allodole. Pianura solcata, prima che la bonifica agraria ne mutasse il volto, da una fascia mediana di acque sorgive. Tra questa e il mare scoperto dal Carlino delle Confessioni, la bassa propriamente detta, varia di acquitrini, di correntie e di mulini, paradiso dei cacciatori e dei botanici, degli zoologi e dei poeti. Un mondo favoloso che ebbe il suo signore in Tita Marzuttini, poeta a suo modo. Voci e colori di quel mondo ebbero in lui l'interprete innamorato dei volatili vivi non meno che di quelli impallinati dai suoi infallibili tiri. Tanto prima di finire allo spiedo, quest'ultimi avrebbero posato per qualche natura morta. Non meravigli quindi se per fermare quel mondo egli si rivelò di volta in volta pittore e inventore, scrittore e musicista. Era nato a Udine nel 1863 da una famiglia di patrioti. Compiuti gli studi medi nella città natia e frequentata l'Accademia di Belle Arti di Firenze, s'era abbandonato anche allo studio della musica. Merito suo e dei maestri Cuoghi ed Escher se la villotta friulana rinacque permeata di spirito e gusto moderni, tutti e tre precursori dell'opera che in questo settore riprenderà più tardi la Società Filologica Friulana. Alcune composizioni del Marzuttini corrono di bocca in bocca ormai popolari. Una di esse, Lis Campanis, le campane, innesta e fonde la malinconia dei bronzei rintocchi, indovinati effetti onomatopeici che aprono e chiudono il canto, alla disperazione d'un abbandono d'amore. Una volta voi, campane, dondolando sul campanile, mi ricantavate la gioia dell'amore, ma ora voi mi suonate l'agonia. Sono abbandonata dal mio bene. Dalla sua passione di cacciatore germogliano i motivi pittorici. Lo inebriano le sposanti scorribande in stivaloni nelle paludi, il cane pronto alla ferma, il cielo striato di nuvole saettato di rapidi voli. Deposto il carniere rigonfio, riporterà poi gli appunti dall'album, inseparabile come la cartucciera, sulla tela o sulla carta o sul rame. Si delineeranno così olii, acquarelli, incisioni che avranno a soggetto palmipedi e trampolieri, cani e macchiette ambientate nel villaggio, bimbi infreddoliti dalla neve e mendicanti. Alle volte afferrerà la penna e si sfogherà scrivendo le proprie impressioni con piglio nervoso, incisivo. Poi correrà il piccolo organo nello studiolo, accanto alla fucina zeppa di attrezzi e di motori, che Dedalo, alla ricerca della stabilità del velivolo e persino del moto perpetuo, componeva e scomponeva come Penelope la sua tela. Morì ottantenne a Faullis, presso Palmanova, nella vecchia casa dei suoi sogni di artista multiforme, insoddisfatto, irrequieto, lasciando fasci di tele e di carte dipinte e un cassone pieno di musica sacra e profana. Pagine che dicono la misura del suo estro, fresco talvolta come la risorgiva, tormentato talaltra come aggrovigliati sterpeti. Ave Maria, interpretata dai Plettri, vuole essere un omaggio alla memoria del maestro, reso dal circolo mandolinistico di Udine che porta il suo nome e che fu da lui fondato, come da lui fu fondata la sezione mandolinistica del circolo artistico di Trieste, dove era legato d'amicizia ai migliori operosi per l'Italia.